Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e la cronaca di questa giornata economico-finanziaria oggi di nuovo a cavallo tra cronaca giudiziaria da un lato ma anche economia internazionale dall'altro. Perché lo dico? Perché inizia il G20, è un G20 in cui molti, a mio avviso forzando un po' l'analisi, parlano di guerra valutaria, ma c'è tutto il tema dei rapporti di cambio e quindi della forza dell'euro, o meglio della debolezza del dollaro e della debolezza dello yen nei confronti dell'euro. Ha già parlato Mario Draghi, il G20 inizierà a Mosca, ce ne occuperemo tra pochi minuti. Mario Draghi ha parlato a nome, diciamo, di tutti i partecipanti, e anzi parlerà a nome di tutti i partecipanti, ma ha già rilasciato delle dichiarazioni dicendo che i tassi di cambio non sono un obiettivo politico ma sono importanti per la crescita e per la stabilità dei prezzi, quindi per l'inflazione. In ogni caso monitoreremo la situazione. Tutto questo, comunque, il tema della guerra di valute è chiacchiericcio, è infruttuoso, autolesionista e inappropriato. Un giudizio molto netto e severo, quasi tranchant sulla guerra cosiddetta valutaria. Draghi ha anche detto però che i dati che arrivano dall'area euro sono peggiori del previsto, anche se c'è qualche segnale di fiducia. E poi ha detto non si può creare la crescita gonfiando i bilanci dei singoli paesi. Poi il presidente della Banca Centrale Europea, della Bundesbank, della Banca Centrale Tedesca, Hans Widmann, ha detto che la Banca Centrale Europea non taglierà i tassi per indebolire l'euro. E altre dichiarazioni di questo tipo. Questo è un fronte, il fronte, diciamo, dell'economia internazionale e delle diverse posizioni nell'area euro su quanto debba valere l'euro. Faccio notare una cosa che ho trovato abbastanza interessante. C'è uno studio su quello che dovrebbe essere il livello di cambio accettabile euro-dollaro per un paese, fino a che punto può arrivare l'euro per non poi danneggiare le esportazioni, quindi sostanzialmente la capacità di competere di un paese. Il tasso previsto per l'Italia è 1,19, la Spagna 1,20, la Germania invece potrebbe reggere fino a quota 1,53, lo dice Morgan Stanley, visto che nell'ultimo anno l'euro comunque si è rafforzato sul dollaro del 20%, del 2% e sullo yen del 20%, però sul dollaro da luglio è a più 11%, e anche in rafforzamento l'euro sulla sterlina, cioè l'euro è in rafforzamento su tutto. Dicevo, Morgan Stanley, banca d'affari americana, stima che la Germania possa reggere bene come sistema produttivo con un euro fino a 1,53, la Spagna 1,26, l'Italia 1,19, ora è a 1,33, per cui per noi, secondo Morgan Stanley, inizia a essere non conveniente e dannoso. Detto questo, ancora sui temi, parleremo di questo allarme nuovo che a mio avviso viene montato ad arte sulla Grecia. Su internet si stanno moltiplicando le proteste per l'atteggiamento dei media italiani, che non starebbero dando alcun risalto a quanto sta accadendo in Grecia, dove la situazione starebbe degenerando, assalti ai supermarket e rapine nelle banche, aumentate le rapine del 600% nelle ultime settimane. E poi un economista tedesco, Sinn, consigliere di Angela Merkel, che ha presentato un rapporto urgente alla Banca Centrale Europea in cui si sostiene che la Grecia deve uscire subito e temporaneamente dall'euro, svalutando la moneta del 20-30%, pena la definitiva distruzione dell'economia greca, arrivata a un tal punto di degrado, leggo testualmente, da poter essere considerata come tragedia umanitaria. Su questo siamo d'accordo, bisognerebbe capire chi ha portato la Grecia a quel livello, al di là degli errori e delle colpe dei greci che hanno truccato i conti, ma da allora in poi chi ha adottato una situazione così di rigore estremo nei confronti della Grecia. Tragedia umanitaria e quindi cominciare anche a ventilare l'ipotesi di chiedere l'intervento dell'ONU, per la Grecia. Allora io dico, visto che questo fa il consigliere economico della cancelliera tedesca Angela Merkel, prima di chiedere l'intervento o ipotizzare l'intervento dell'ONU per la Grecia, visto che ricorda la situazione umanitaria drammatica, tragedia umanitaria in Grecia, forse non farebbe bene anche a consigliare a Angela Merkel di cambiare atteggiamento, visto che con i tagli che abbiamo chiesto alla Grecia, la Grecia continua a avvitarsi in una spirale senza fine, a peggiorare il suo andamento economico e quindi a dover essere ancora più in difficoltà, ancora più sotto pressione sui rimborsi. Non lo so, chiedo, e comunque va a Sinn, all'economista tedesco Sinn, il nostro gufo di oggi, perché ipotizzare l'intervento dell'ONU per la Grecia e la Grecia che esca dall'euro adesso ci sembra una gran bella gufata. Ma poi vi saranno anche gli altri temi di questo programma e chiaramente l'interrogatorio di Giuseppe Mussari, accolto e anche all'uscita, devo dire, con insulti, lanci di monetine, grida di alcune persone lì presenti. L'interrogatorio, anche le dichiarazioni rese da Orsi, ex numero uno di Finmeccanica. Il tema chiaramente poi sullo sfondo, lo affronteremo tra un'ora, è: siamo di fronte a una nuova Tangentopoli, un tema molto dibattuto in questo momento. Certo che vi sono delle analogie forti, ma c'è chi mette in fila la decisione dei magistrati sull'ILVA, non tanto la decisione nei confronti della famiglia Riva, ma la decisione di bloccare l'ILVA con la perdita della commessa di Finmeccanica, con quello che è successo con l'ENI e quant'altro. Io tenderei a distinguere molto tra i vari casi, incluso anche il Monte dei Paschi, però è chiaro che in questo momento c'è un elemento, se si guarda complessivamente la situazione, di destabilizzazione. E oggi è durissimo il settimanale Mensile Economist, che dice sostanzialmente in una foto a tutta pagina: chi può salvare l'Italia? Il settimanale infatti fotografa una torre di Pisa sempre più inclinata, e da più parti in questi giorni sono arrivati articoli, commenti di estrema preoccupazione. Detto ciò, andiamo avanti con le altre notizie, partendo dalla borsa, che è invariata a Milano, invariata a Parigi, Francoforte meno 0,26, Londra più 0,31, l'euro, dicevamo, sul dollaro è 1,3356. Chi va bene oggi? L'ENI più 2,70%, Ferragamo più 1,80, Diassorin più 1,30, Tod's più 1,20, Snam più 1, Saipem più 0,90 come Pirelli ed Exor. Chi va male? Di nuovo Finmeccanica meno 4%, Monte dei Paschi meno 2,33%, Mediobanca meno 2, Telecom meno 1,90%, Popolare Emilia Romagna meno 1,60, come il Banco Popolare che perde 1,5, e anche A2A. La Pop Milano perde l'1,30 come le Generali. L'ENI oggi ha diffuso comunque i dati sul 2012, chiude con un utile netto pari a 7 miliardi e 800 milioni di euro, più 13% l'utile e mezzo, l'utile del cane a sei zampe. Scusatemi, e ancora il dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione di 1,08 euro per azione, di cui metà è già stato distribuito come acconto. Ancora tra le notizie di oggi, al di là dei temi che adesso affronteremo, sono vari rapporti. Uno è quello che riguarda il rapporto di Intesa San Paolo sui distretti industriali italiani. La ripresa è rinviata di un anno, aggiungo io di un altro anno, perché poi non sappiamo, però sicuramente quest'anno chiudiamo con un meno uno, se va bene. Per ora dovremmo chiudere con un meno uno, e quindi non si può certo parlare di ripresa. Per quello che riguarda il debito pubblico, in un anno è aumentato di 81 miliardi, lo dice oggi la Banca d'Italia, di cui 30 miliardi dovuti al sostegno finanziario per i paesi dell'area euro, oltre un terzo, quindi questo debito è il sostegno finanziario ai paesi dell'area euro. Il nostro commercio con l'estero è andato bene, ma questo già più volte l'abbiamo ricordato, nel 2012 più 11 miliardi il saldo, la differenza tra l'export e le importazioni è a vantaggio delle nostre esportazioni ed è il saldo commerciale migliore dal 1999. Attenzione però, in questo dato c'è sicuramente tutto il merito delle nostre imprese che hanno saputo continuare a esportare sui mercati in crescita. C'è anche però un calo nell'importazione di energia, un minor consumo di energia e un avanzo soprattutto del settore dei prodotti non energetici, 74 miliardi. Chi invece non va bene è il settore immobiliare, lo abbiamo spiegato molte volte in questi anni. La prima cosa che capita nel settore immobiliare è un calo delle compravendite, cioè i tempi sono più lunghi per vendere e comprare casa e c'è un minor numero di acquisti e vendita, chiaramente. Dopodiché il passaggio successivo, come è avvenuto purtroppo, purtroppo per chi vuole vendere casa, non per chi vuole comprarla, c'è un calo anche dei prezzi. Allora, oggi nel report immobiliare della FIA, della Federazione degli Agenti Immobiliari, si segnala un calo del 12% nei prezzi delle abitazioni nel 2012, 12%, e le compravendite fanno meno 11%. Dal 2008 il valore medio delle compravendite è calato del 25%. Attenzione, non vuol dire che il prezzo del mattone sia calato del 25% dovunque, però in alcuni casi i cali sono stati molto più forti, in altri molto più deboli, però il valore medio delle compravendite è meno 25%. Il rapporto OCSE, che si occupa anche dell'Italia, occorre ridurre le distorsioni e gli incentivi all'evasione diminuendo le già altissime aliquote fiscali, dice l'OCSE, e tassare una più ampia gamma di esternalità ambientali e riaffermare la volontà di evitare i condoni. E poi devono essere più flessibili sia le assunzioni che i licenziamenti in Italia, vanno aumentate le tasse universitarie, ma ha introdotto un sistema di prestiti per studenti che devono essere condizionati al reddito e quindi poi ridati nel futuro. Per quello che riguarda lo IOR, invece, cambiamo tema, il nuovo presidente della Banca Vaticana è il tedesco Ernest von Freiberg. E invece per quello che riguarda il Monte dei Paschi vi arriveremo, insomma, l'interrogatorio di Mussoli è terminato circa un'ora e dieci minuti, è rimasto dai PM per circa tre ore, contestato sia l'ingresso sia l'uscita con ladro, grida, ti è finita la pacchia, lancio di monetine, appunto. Mentre per quello che riguarda Finmeccanica, il Ministero della Difesa indiano ha dato avvio alle azioni necessarie per cancellare tutta la commessa da 550 milioni di euro per i 12 elicotteri Agusta Westland, quella che è al centro dell'inchiesta che ha portato in carcere l'amministratore delegato e presidente ex presidente amministratore delegato Giuseppe Orsi. Faccio notare una cosa, poi ne parleremo più avanti. Mentre l'India cancella l'ordine nostro di 12 elicotteri, è arrivato ieri in India il presidente francese François Hollande, due giorni in India per parlare di accordi commerciali. La Francia è un grosso concorrente dell'Italia proprio nel settore aerospazio, difesa, tecnologie, e infatti vanno a parlare di ridefinire la commessa da 126 aerei del caccia Rafale per l'aviazione militare indiana, ma anche reattori di nuova generazione, reattori nucleari. E il capo di Stato francese, accompagnato da cinque ministri, tra cui quello degli esteri, Laurent Fabius, e 60 uomini d'affari. Siamo sicuri che poi nelle trattative business to business questi 60 uomini d'affari non faranno certo, non utilizzano certo mediatori d'affari e consulenze varie. No, dico, stiamo scherzando, i francesi. Faccio anche notare che l'India, per sua libera scelta, è stato l'unico paese, uno dei pochissimi, a voler comprare il caccia francese Rafale per la sua aviazione e non lo Eurofighter, che onestamente offriva qualche affidabilità in più, essendo già molto collaudato. Il Rafale ce l'hanno solo i francesi, però hanno scelto di comprare con un ordine di miliardario 126 caccia Rafale. Anche in questo caso siamo sicuri che non vi è stata nessuna mediazione di uomini d'affari, di consulenti, in India, siamo sicuri di questo. Nel frattempo si è concluso l'interrogatorio anche del numero uno di Finmeccanica Orsi, in carcere appunto, mai saputo di manovre illecite. Lui si è dimesso ufficialmente da amministratore delegato e presidente, ha detto nessuna interferenza e nessuna pressione sui magistrati. Il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, indagato per la vicenda delle tangenti Saipem in Algeria, ha detto né l'ENI né io abbiamo alcun coinvolgimento nelle pratiche sotto inchiesta, e poi ha aggiunto è perfettamente possibile fare business ovunque nel mondo senza pagare tangenti, se non lo fosse non lo faremmo dove non lo fosse, questo deve essere chiaro e cristallino. No, non posso rispondere ad alcuni messaggi. C'è chi dice che sono diventato berlusconiano, va bene anche così. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook per i messaggi su Facebook. E noi partiamo con il primo tema, che riguarda i G20. Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, non vuol sentir parlare di guerra valutaria, e va bene, c'è obiettivamente qualcosa che non torna, e soprattutto l'euro in questi mesi si è continuamente rafforzato, questo è fuori discussione, basta vedere i rapporti di cambio, o meglio in questi mesi è continuata una leggera svalutazione del dollaro, un'ampia svalutazione dello yen e anche una certa svalutazione della sterlina. Inizia oggi a Mosca e durerà tutto il weekend il G20 dei ministri finanziari e dei banchieri centrali. Al centro la questione dei cambi, più 21% l'euro sullo yen, dicevamo, più 11% da luglio sul dollaro e più 3% sulla sterlina. Ripeto, lo studio di Morgan Stanley, secondo la banca d'affari americana, la Germania potrebbe essere competitiva anche con un euro a 1,53. Per l'Italia invece la soglia ottimale sarebbe 1 euro a 1,19, per la Spagna 1,26. Non c'è alcuna guerra valutaria, ha detto il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. Di Draghi abbiamo detto, ha detto la guerra valutaria è infondata e soprattutto non basta con i chiacchiericci infruttuosi, autolesionisti e inappropriati. C'è anche il tema della Francia, che non raggiungerà l'obiettivo del deficit sotto il 3%. Oggi il membro tedesco della Banca Centrale della Banca Centrale Europea, Holger Münzen, ha detto il governo francese deve mantenere gli impegni presi consolidando le proprie finanze, è importante che tenga il deficit sotto il 3%. Però è arrivato poi il ministro delle finanze russo, Anton Siluanov, ha detto, insomma, attenzione, l'obiettivo che ci eravamo dati nel 2010 di dimezzare i deficit dei paesi del G20 entro il 2013 potrebbe slittare al 2016. Dobbiamo adottare obiettivi realistici e raggiungibili, per non dire dopo 3 anni che bisogna rivederli. Io trovo più buon senso in queste parole che in alcune dichiarazioni della Germania. Comunque, Alessandro Merli, inviato a Mosca. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Ti sentiamo leggermente disturbato, come audio chiaramente, non tu. Allora, Draghi dice che non c'è guerra valutaria in corso, ma neanche guerra di deficit, Alessandro, visto che appunto Widman è tornato a dire alla Francia dovete stare sotto il 3%. Allora, affrontiamo le due cose una alla volta. La guerra valutaria. Draghi dice innanzitutto che l'euro sta più o meno sulle medie di lungo periodo e quindi sembra non essere particolarmente preoccupato dal recente rialzo dell'euro. Poi gli dà fastidio quello che chiama, come vi ricordate, il chiacchiericcio sui cambi, e sembra che questa cosa stia un po' prevalendo dentro al G20, nel senso che si sono accorti che il comunicato del G7 fatto questa settimana è stato più che altro controproducente, nel senso che ha provocato più volatilità sui mercati e non meno volatilità sui mercati. Quindi questo è un punto. I partner, tra l'altro, sembra che riconoscano al Giappone il fatto che in qualche modo deve cercare di rilanciare l'economia e che questo passerà anche da un deprezzamento dello yen, anche se forse Tokyo avrebbe fatto meglio a non dirlo così esplicitamente. Per quello che riguarda invece la crescita e l'austerità, si stanno formando, come spesso avviene, delle posizioni contrapposte. Una è quella degli Stati Uniti, sostenuta in questo caso dalla Russia, che dicono che l'austerità non deve strangolare il rigore, non deve strangolare quel poco di crescita che c'è, e naturalmente a questo risponde la Germania, prima di tutto, che non vuole attenuare i suoi gli obiettivi che l'Europa si è posta, e Draghi in fondo ha sostenuto questa posizione, nel senso che ha ricordato che la priorità europea è quella del consolidamento dei conti pubblici e che non si può fondare la crescita sull'aumento del debito pubblico. Beh, su questo come non dà ragione a Draghi. Però, ripercorrendo i due fronti, sul fronte valutario, tu ricordavi come anche nel G20 si sia capito che il Giappone, per rilanciare la sua economia, deve un po' svalutare lo yen, forse non doveva dirlo in maniera così esplicita come tu ricordavi. Mi resta un dubbio, cioè anche noi nell'area euro avremmo bisogno di rilanciare la nostra economia, visto l'anno che ci aspetta, però qua non se ne parla di avere un euro leggermente più debole. So benissimo che noi paghiamo il petrolio in dollari e tutte le materie prime, e quindi c'è un vantaggio, ma nel momento in cui tu hai una stagnazione barra recessione dei consumi e vedi che calano comunque i prezzi, il consumo di benzina e carburante, attenzione, perché fino a un certo punto questo ragionamento è valido. Se poi invece hai una difficoltà a esportare, il vantaggio che puoi avere nel pagare meno le materie prime si annulla, perché poi non riesci a vendere su certi mercati. Dicevo, mi fa un po' ridere che al Giappone vada bene, ma l'Europa non può fare la stessa cosa, se ho ben capito, Alessandro. Diciamo che l'unica concessione che Draghi ha fatto su questo punto è che la BCE è consapevole che il movimento del cambio, in questo caso il rialzo dell'euro, ha un effetto su inflazione e crescita, e che a marzo verranno riviste le previsioni sia sull'inflazione che sulla crescita, e da questo si trarranno le necessarie conclusioni. Peraltro il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha detto proprio oggi che la BCE non ha intenzione di abbassare i tassi di interesse solo per far scendere il cambio. Diciamo. Quindi direi che su questo probabilmente Weidmann incontra anche il consenso di Draghi. Questo, sono d'accordo, a differenza di altre. Ecco, sul fronte del deficit invece, tu noti un, tra virgolette, isolamento tedesco? Cioè, quando io leggo che il ministro delle finanze russo dice ma insomma è inutile che continuiamo a porci obiettivi che non raggiungeremo, dimezzare il deficit entro il 2013, la Francia aveva ottenuto un parziale appoggio, poi modificato nelle dichiarazioni da Olli Rehn, dal commissario europeo. Si sta creando un fronte europeo che dica va bene, continuiamo a ridurre il deficit, ma non possiamo morire per il 3.1 invece che il 2.8? Ma alcune modifiche sono già state fatte, no? In particolare per i paesi diciamo più sotto pressione, soprattutto i paesi che hanno dei programmi già in corso, come l'Irlanda, il Portogallo, la Grecia, sono allungati i termini di rientro del deficit. È stato fatto anche per la Spagna. È possibile che qualche concessione venga fatta anche agli altri, qualche reinterpretazione, diciamo, di questi criteri, però è chiaro che la Germania, come sempre, è molto dura su questi punti. L'Italia temo che abbia un po' la colla di pace, cioè non credo che possa essere l'Italia a sostenere pubblicamente al G20 che il rientro dal deficit e dal debito vada allentato, perché sennò si troverebbe immediatamente di nuovo nel mirino. Sì, vediamo se poi qualcosa si potrà muovere lì, però in questo momento la Francia è il paese che più si sta contrapponendo. Devo dire che a me ha fatto molta impressione, adesso ne parleremo, l'allarme lanciato da questo consulente di Angela Merkel sul fatto che la Grecia ormai sia un disastro umanitario, e dice iniziamo a ragionare sull'intervento dell'ONU in Grecia. Alessandro, per concludere, ma qualche così riflessione autocritica, anche se non palesata, la fece il capo economista del Fondo Monetario Internazionale un mese fa, se non ricordo male, ma al G20 si respira, cioè che lo stallo dell'area euro possa essere anche il frutto di scelte sbagliate, troppo draconiane, troppo drastiche, si sente aleggiare oppure no? Questa cosa degli studi del Fondo Monetario è stata citata espressamente dal sottosegretario al tesoro americano Brainard, che qui rappresenta il governo di Washington. Come sapete, il nuovo segretario non è ancora stato confermato dal Congresso. Ha detto esplicitamente: non possiamo mettere a rischio la ripresa per un eccesso di rigore fiscale. Ricordatevi quello che dicono gli studi del Fondo Monetario Internazionale. Adesso, fino a che punto questo discorso venga recepito in Europa, appunto deve fare i conti con la posizione tedesca. Per quello che riguarda la Grecia, un ripensamento tedesco c'è già stato ed è stato nei fatti dichiarato dalla visita della Merkel in Grecia, quando di fatto la Merkel ha chiarito che la Grecia sarebbe stata sostenuta. Alessandro, grazie e in bocca al lupo questo fine settimana a Mosca. Fa freddo, immagino? Domanda tra le più stupide che mi sono mai venute. Francamente, come mi sarei aspettato, l'ultima volta che uno di questi G, che allora credo fosse il G7 o il G8 qualche anno fa, si è riunito a Mosca in febbraio, c'era meno 40. Credo che oggi siamo qualche grado sotto zero, ma insomma, nell'ambito della tollerabilità. Allora, anche, almeno quello va bene, la temperatura a Mosca va bene, il resto mi sembra che invece sia più discutibile. E grazie Alessandro Merli in collegamento con noi da Mosca. Però resta sullo sfondo questo tema greco. Vedo molti ascoltatori che scrivono invece della visita, della strana coincidenza della visita di Hollande in India, iniziata ieri con 60 grandi imprenditori, 6 ministri, tra cui quello degli esteri, per dialogare di forniture sul nucleare, ma anche dei 126 caccia Rafale. Io non ho mai detto che caccia Rafale non sia un buon caccia, non sono un esperto, cioè, un appassionato sì, ma un esperto no. Ho detto solo che l'India è l'unico paese, parte la Francia, a averli comprati. Gli altri paesi hanno sempre preferito il caccia europeo, Eurofighter, come acquisto. Allora dico, interessanti. Ho detto, immagino che li abbiano comprati non come hanno fatto con gli elicotteri italiani, ma senza alcun tipo di mediazione d'affari, consulenza, commissione, no? Nel senso che immagino che il gruppo Dassault francese non si sia rivolto a nessuna persona in India. Si è arrivato lì con la foto del caccia e ha detto: guardate, questo è il nostro caccia, lo volete o non lo volete? Ma per favore. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo di Grecia adesso. Faccio solo notare che il presidente francese Hollande, nella visita in India che sta tenendo con 60 manager e 6 ministri per firmare accordi commerciali, ha detto che sulla qualità dell'aereo Rafale garantisce lui personalmente. Taglia la testa al toro su tutto. E poi c'è chi scrive: si fa impresa anche senza tangenti. Ne parleremo con Giulio Sapelli alle 18.10. Ma è ovvio, nessuno ha mai detto che si deve fare impresa con le tangenti. Questo è un programma che da sempre difende la legalità, la lotta all'evasione e quant'altro. Abbiamo solo detto che in certi settori e mercati, ma non è che posso parlare ogni giorno, bisogna anche conoscerli. Quando è che fare con commissioni da centinaia di milioni di governi, non del singolo imprenditore, diciamo da consulenza. Guardate che delle volte i paesi più virtuosi chiedono ai grandi gruppi di, in cambio, per esempio nel caso dello sfruttamento petrolifero, di costruire scuole, asili, ospedali. Io li ho visti personalmente, quelli dell'ENI in Congo anni fa. Per cui, cioè, non è che lo scambio sia solo, diciamo, di mediazione. E poi c'è anche la commissione per i mediatori, per chi diciamo fa lobby in quei paesi. Ora, la lobby fatta a Washington viene fatta nel congresso con l'albo dei lobbisti, la lobby fatta in Indonesia, in Kazakistan, con massimo rispetto per quei paesi, in Nigeria o in Algeria o anche in India, forse è un po' meno formale di quella americana, La Grecia, allora, che senso ha quello che sta capitando su internet? Ossia, ci sono centinaia di proteste per l'atteggiamento dei media italiani che non starebbero dando, secondo queste accuse, alcun risalto a quanto sta accadendo in Grecia in questi giorni, una situazione che sarebbe degenerata con assalti ai supermercati, rapine nelle banche aumentate del 600%. Una delegazione di Amnesty International ha denunciato come nel paese sia in atto una crisi umanitaria, che detto da Amnesty International fa gelare i polsi. E poi c'è questo mitico economista tedesco Sinn, consigliere di Angela Merkel, che è alla guida dell'IFO, che è l'istituto che monitora anche la fiducia delle imprese e dei consumatori tedeschi, che ha detto, ha presentato un rapporto urgente alla Banca Centrale Europea in cui si sostiene che la Grecia deve uscire subito, temporaneamente, dall'euro, svalutando la moneta del 20-30%, pena la definitiva distruzione dell'economia greca, arrivata a un tale punto di degrado, sto leggendo testualmente, da poter essere considerata come tragedia umanitaria, e quindi cominciare anche a ventilare l'ipotesi di chiedere l'intervento dell'ONU. Quindi la Grecia, come Haiti, con massimo rispetto sia per Haiti che per i greci. Vittorio Darold, che fa su e giù tra Milano e Atene, perché è colui che segue per il Sole 24 Ore tutta la vicenda greca. Buonasera. Buonasera a voi. Siamo a questo livello? No, non siamo a questo livello. Cioè, effettivamente ci sono dei problemi, ci sono state delle rapine in banca, come pure sono aumentati i borseggi, o comunque un certo tipo di pericolosità sociale nel centro di Atene che prima era sconosciuta. Ci sono stati degli episodi relativi a dei gruppi anarchici che sono stati molto violenti nel momento in cui la polizia ha recuperato una palazzina che era storicamente occupata nel centro di Atene e che la polizia, per riportare l'ordine, appunto, è stata sgomberata. E lì ci sono stati degli scontri, però sono tutti episodi in qualche modo fisiologici. Se uno guarda la situazione più generale, non può non notare che c'è una ripresa complessiva del paese, nel senso che la partita del debito corrente si sta rimettendo in ordine, vuoi anche per il calo dei consumi ovviamente, ma che in qualche modo la situazione si sta mettendo sui giusti binari, perché prima la situazione era insostenibile, cioè c'era un paese che non produceva, era completamente a debito e aveva una corruzione e un'evasione fiscale, un record europeo. Certo. Oggi, pian pianino, lo diamo oggi anche sul nostro sito, è stato posto il nuovo capo dell'IT, appunto, del fisco greco, che ha preso un ex, appunto, di una grande banca d'affari, per rimettere a posto e cercare di incrociare i dati. Cioè il tentativo è quello di un mago dell'IT che possa cominciare a fare la lotta all'evasione. Certo, sarà dura, sarà difficile, perché come voi sapete c'è stata anche la famosa lista Lagarde, cioè la lista Falciani, che sì, in Grecia si chiama Lagarde, cioè 2000 conti correnti di gente che aveva occultato i suoi appunto risparmi a Ginevra, nella sede della SBC. Dopo due anni che la Lagarde, che allora era ministro delle finanze francese, gliel'aveva dato al suo omologo greco, non aveva fatto nulla. Dopodiché si è scoperto che molti di questi soldi erano frutto di corruzione, guarda caso, durante le Olimpiadi del 2004, di società che avevano appunto finanziato o cercato di avere degli appalti, tra cui una era appunto la Siemens tedesca, che poi è stata condannata da un tribunale tedesco perché aveva corrotto. Per corruzione, per cosa? Per i servizi di sicurezza che erano inadeguati per la lotta al terrorismo, cioè avevano dimostrato che c'erano delle falle. E non è la prima volta che la Siemens viene condannata, ma adesso non voglio tornare sul tema, perché già c'è chi scrive che sto difendendo i disonesti. La Siemens è stata condannata. I soldi, evidentemente, la lista della cosiddetta lista, chiamiamola Siemens, cioè quelli che avevano preso i soldi, parzialmente delle tangenti Siemens, certo. Parzialmente si intreccia con quella della lista Lagarde, cioè quelli che poi hanno esportato, certo, i medesimi soldi. Nei no, io ho una domanda, ce l'avrei, però è così. Perché quando la Siemens viene condannata o quando Thales, colosso francese dell'aerospazio difesa, finisce in uno scandalo di tangenti, la stampa internazionale non scrive, ecco, la classica corruzione, la francese o la tedesca, se lo facciamo noi, l'altro ieri c'erano i giornali pieni di, ecco, la classica corruzione d'Italia. Per due motivi forse, perché da noi la corruzione è più endemica, c'è chi dice che non è più patologica, è fisiologica, e vabbè, e questo c'è sicuramente, ma anche perché c'è un pregiudizio su questo sull'Italia, cioè se la tangente è italiana, ecco gli italiani, è come lo scippo, come il furto. Se la tangente è tedesca o è francese, diciamola tutta, c'è un maggior riguardo, e su questo nessuno mi convincerà del contrario. Allora, Vittorio D'Arold, lo scopo di tutto questo secondo te è quasi, diciamo, da manovra dietrologica, cioè in tornare a indebolire la Grecia nel momento in cui sta facendo i compiti, nel momento in cui la situazione si risolleva. Ma come mai questa cosa scatta su internet? Cioè questa accusa che noi non stiamo guardando al dramma umano, noi l'abbiamo raccontato più volte, anche perché la Grecia ha fatto nell'ultimo trimestre dell'anno un meno 6% come PIL, quindi di nuovo chiude con una pesantissima recessione, e ha registrato ieri un nuovo record di disoccupazione a novembre, il 27%. Pensate che ormai, se tu sei un giovane greco, quindi tra i 15 e i 24 anni, il 62% sono disoccupati, è una cifra che... insomma, incredibile. 62% vuol dire appunto 6 giovani greci su 10. Dicevo, come stiamo sottovalutando qualcosa? Forse non ci arrivano tutte le informazioni sul... Amnesty International ha voluto forzare la mano, chiedo. Sì, al di là del consulente della Merkel, che ho già capito, insomma. Sì, il consulente della Merkel è un personaggio molto estremo, cioè non ha mai gradito nemmeno l'Italia nell'eurozona, quindi è un personaggio che ha sempre voluto in qualche modo porsi in una posizione molto, molto critica. Il vero problema è che sulla Grecia ci sono effettivamente dei problemi di sofferenza determinati dall'austerity, dalle misure di austerity, perché ti riducono il salario, ti riducono la pensione, ovviamente non ci sono. Ti pagano la tredicesima. Quindi questo è tutto così. Però se tu guardi alla situazione in essere, ci sono dei recuperi di competitività, ci sono delle forme di recupero di capacità impositiva, perché tu sai che gli autonomi in Grecia dichiaravano all'80% tutti meno del limite minimo di esenzione, quindi l'80% non pagava le tasse. Allora, in una situazione del genere, è chiaro che le entrate erano esigue. Oggi hanno messo questa piccola tassa sulle case, riscossa attraverso la bolletta elettrica, che è la nostra IMU, e questo già ha creato un minimo di entrate, diciamo, più regolari. Però il vero problema è che è un paese che sta gradualmente recuperando gli standard europei. C'è una task force di 50 persone che sono giù appunto ad Atene, guidati da un tedesco, per recuperare l'efficienza della macchina amministrativa. Ricordiamo che la macchina amministrativa greca aveva 650.000 persone in più del necessario. Cioè una situazione di un paese dove la struttura proprio clientelare era diventata norma, e dal 2004, proprio dopo che la Francia e la Germania avevano dato il via libera con la rottura del patto di stabilità, vi ricordate, nel 2003 la Francia e la Germania dissero il patto può essere rotto, e nel 2004 la Grecia prese subito al balzo la cosa con le Olimpiadi, certo, e da lì partì. No, fai bene a ricordare, anche visto quello di cui parlavamo con Alessandro Melli su G20, che i tedeschi e i francesi furono nel 2003 i primi a non rispettare i patti sul deficit al 3%. Poi ci arrivò la Grecia con le Olimpiadi truccando i conti, una cosa vergognosa, lo dico senza nessuna difesa della Grecia. Però i primi a non starci dentro furono francesi e tedeschi, graziati dall'Unione Europea, per tornare al tema di chi ha un occhio di riguardo e trattamenti di riguardo, grazie anche all'appoggio italiano, perché sbagliando i calcoli, a mio avviso, l'allora ministro Tremonti, l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi, pensano che in questo modo i tedeschi, i francesi sarebbero stati più morbidi con noi quando avremmo noi sforato eventualmente il 3% di deficit sul PIL. Quando ci capitò furono durissimi, ok? Per cui a memoria futura meglio ricordarselo. Grazie a Vittorio Darold. Adesso volevo fare i mercati finanziari, li farò io oggi perché Radio Cosa su 24 ore in assemblea, ma poi vorrei andare subito sulla vicenda Monte dei Paschi. Grazie non a voi. Posso, grazie Vittorio, non posso continuare a rispondere anche perché poi sarà il prossimo tema. Dico semplicemente, per evitare messaggi su Facebook e sugli SMS, che le tangenti vanno sempre perseguite, che sicuramente se verrà fuori nell'operazione Finmeccanica che c'è stata una sola fatturazione o per intascare i soldi o per girare i partiti, è giusto che la magistratura si muova. Nessuno pensa a un complotto della magistratura qui. E lo dico per evitare confusioni con altre dichiarazioni elettorali, penso a quelle di Berlusconi. Ho solo detto, attenzione, prima di sparare ad alzo zero nei confronti di come vengono svolte, vengono vinte le gare in certi paesi, non tutti i paesi sono la Svezia o gli Stati Uniti, per quanto riguarda gli Stati Uniti poi, bisogna sapere come funzionano e che tipo di mediazioni vengono pagate da tutte le imprese europee o americane quando vogliono vincere gare in quei paesi. Bisogna saperle queste cose, tutto qui. Dopodiché, se uno è intascato anche solo un euro per altri motivi, è giusto che venga condannato e processato. Ma non mi dite che i grandi colossi tedeschi e francesi, quando vanno a vincere le commesse, porca miseria, con il primo ministro, il cancelliere lì, tutti i ministri lì, è solo guardando su internet la foto e il dettaglio del carro armato, dell'aereo, del radar o della metropolitana, e non è in altro modo. Per cui, per favore, questo vuol dire essere fuori dal mondo. Detto ciò, a borsa. Giornata oggi di quelle, per fortuna anche non memorabili, nel senso che non è successo nulla di grave sui mercati. Meno 0,25% Parigi, meno 0,50% Francoforte, meno 0,33% Milano, Londra invariata, l'America invariata in questo momento. I titoli, allora, oggi hanno pagato i titoli sotto inchiesta, o in cui i amministratori delegati sono finiti sotto inchiesta, mi riferisco a due soprattutto, Finmeccanica meno 4,13% e Monte dei Paschi meno 2,5%. Eni invece ha diffuso i dati sul 2012, c'è un utile da record, più 13,5% a 7 miliardi, non da record assoluto, ma un ottimo utile, più 13,5% a 7 miliardi e 800 milioni. In realtà adjusted, quindi con tutti i correttivi, è un più 2,7%. Il dividendo verrà distribuito a 1,08 euro per azione, di cui 54 centesimi sono già stati anticipati. Ancora sui titoli bene, Salvatore Ferragamo e Lusso in generale, più 2,22 Salvatore Ferragamo, Tod's più 1%, buona Pirelli più 0,90 e Tod's, scusatemi, e Diasorin più 1,25%. Tra i titoli negativi oggi troviamo anche la maggior parte dei bancari, oltre al Monte dei Paschi, Mediobanca meno 2,30, Popolare Emilia Romagna meno 2,20, Banco Popolare meno 1,80, Generali meno 1,80, Popolare Milano meno 1,80, Mediolanum meno 1,26, Unicredit meno 1,1, Ubibanca e Intesa San Paolo perdono rispettivamente lo 0,50 e lo 0,70%. Deboli le utilities, A2A meno 1,90%, Enel meno 1%, e debole di nuovo Telecom Italia meno 2,30%. I migliori e peggiori in assoluto, Ciccolella più 9,96%, Brembo più 5,20%, Renault più 4,30, fronte opposto, Seat pagine gialle, nuovo scivolone, meno 13,60. Io non so se la Consob, visto il pochissimo flottante, le pochissime azioni di questo titolo, non debba anche intervenire su questi movimenti. Comunque, Fondiaria Assai sulle risparmie, meno 6,20, Premafin, meno 4,60, SNAI, meno 4,96%. Riprende Focus Economia per la seconda parte, in cui ci occuperemo, dopo aver parlato di G20 e guerra valutaria o non guerra valutaria, del deficit della Grecia. Ripeto, quello che sta circolando in internet, visto che ce lo chiedete, a quanto ne sappiamo noi, sono balle. Ci sono difficoltà in Grecia, ma non quello che sta montando. Adesso arriviamo invece alla cronaca italiana, dell'economia italiana, che purtroppo in questo periodo, come sanno anche i sassi, si chiama e si battezza soprattutto cronaca giudiziaria. Partiamo dal Monte dei Paschi, perché oggi è stato interrogato l'ex numero uno Giuseppe Musseri, l'ex presidente, interrogato a Siena al suo arrivo, lancio. Beh, ve lo faccio proprio sentire come è stato l'arrivo di Musseri. Presidente, risponderà alle domande dei magistrati? Risponderà oggi. Non ho capito, l'hanno buttato a terra. Monetine, grida, buffone, ladro, anche quando è uscito poi dopo tre ore di interrogatorio. Cerchiamo di capire dove si stia orientando l'inchiesta dopo anche l'arresto di Baldassarri ieri. Raffaella Calandra, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. Allora, al di là, diciamo, del, chiamiamolo folklore, anche se di folcloristico non ha niente, ma tre ore di interrogatorio sono il tempo più o meno che vi attendevate come cronisti giudiziari? Ma tre ore di interrogatorio non è particolarmente lungo, considerando che Musseri è il protagonista, uno dei protagonisti di questa inchiesta. I suoi difensori leggono questo tempo come un segnale positivo, dicono che l'interrogatorio che è stato secretato è andato bene. La lunghezza non è necessariamente sintomatica, certo, diciamo, dell'andamento dell'interrogatorio. Al momento non pare sia stata già fissata una nuova convocazione. Certo è che i temi su cui il presidente Musseri è chiamato a rispondere davanti ai magistrati di Siena sono tanti e quindi richiedono anche tempo per essere, diciamo, sviscerati. Di sicuro quello che è facile, diciamo, ricostruire a partire dalle accuse e partire dall'orientamento proprio dell'indagine che si snocciola su filoni diversi, di sicuro, ecco, Musseri avrà raccontato tutte come sono andata la sua versione dei fatti su come è andata la trattativa famosa per l'acquisto di Anton Veneta, che i magistrati considerano, come si legge negli atti, l'inizio di un lento e progressivo declino per la banca, quell'acquisto nel 2007 per 10 miliardi, ma poi ancor di più tutte quante le operazioni che Rocca Salimbeni ha messo in piedi, quelle operazioni di ingegneria finanziaria, a cominciare dai derivati, fatte per sostenere quel prezzo, dal fresh famoso ai derivati. E di tutto questo Musseri avrà sicuramente dovuto parlare. Pare abbia detto anche ai magistrati che lui ha lasciato una banca che era un gioiellino, una parola che evoca gioiellino, in realtà. Gioiellino è il film dedicato a Parmalat. Esatto, forse il paragone non è particolarmente, avrei usato un'altra espressione, diciamo, vabbè, particolarmente, diciamo, felice. Di sicuro questo interrogatorio è un passaggio importante per l'inchiesta, perché appunto bisogna innanzitutto sentire la versione di Musseri sul perché quella notte del 7 novembre del 2007 con il numero uno di Santander, Botin, fece un rilancio ulteriore di 1 miliardo rispetto ad un prezzo che vedeva già MPS diciamo prevalere su l'altra offerta per quanto riguarda la banca Anton Veneta. Dall'altra parte però rappresenta anche forse quasi, non dico un passaggio finale, ma quasi, perché l'indagine, il filone Anton Veneta dell'inchiesta su MPS è molto avanti. I magistrati ritengono di avere tanti elementi ormai raccolti, quindi la chiusura di questo filone, se non vicinissima, diciamo, di sicuro non è particolarmente lontana. Un interrogatorio che succede, che accade poco prima della trasferta in Spagna degli stessi PM per andare a sentire proprio Botin e quindi chiudere su questo passaggio della vendita di Anton Veneta, ma che succede anche, come ricordavi, il giorno dopo il fermo di Gianluca Baldassarri a Milano, il famoso capo dell'area finanza di MPS, un po' considerato il dominus anche della progettazione di questi contratti derivati, e infatti nel decreto di fermo gli è stato anche proprio contestato il concorso nell'ostacolo agli organi di vigilanza per quel contratto Alexandria che era nascosto nella cassaforte del direttore generale Vigni. Certo. Baldassarri sarà interrogato domani qua a Milano. quello che sappiamo già è quello che c'è scritto nel decreto di fermo, ossia che appunto ha cercato di smobilizzare 1 milione di titoli da trasformare in euro, in contanti, ha cercato appunto di avere la residenza a Londra, dove lui ha una delle case oltre che a Miami, e ha cercato anche di avvicinare dei testimoni, tutti elementi che hanno fatto supporre agli inquirenti che ci potesse essere un pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, da cui la richiesta di un fermo che dovrà essere convalidata entro 48 ore da un giudice qua a Milano, e a quel punto sapremo forse anche qualche elemento in più nella sua ordinanza su quanto sia stato ricostruito. Sì, diciamo che cercare di trasformare in contanti 1 milione di euro non penso fosse per l'anticipo delle spese legali o per i weekend di carnevale, diciamo c'era ampio rischio essere buoni che volesse trasferirsi a Londra e da lì magari in qualche altro posto. Grazie a Raffaella Calandra. Noi restiamo sul tema non del Monte dei Paschi, ma di quello che sta capitando, e cioè, a mio avviso, la vicenda del Monte dei Paschi è molto diversa da altre vicende. Mi hanno scritto alcuni dipendenti molto arrabbiati: lei ha un doppio trattamento per Finmeccanica e Monte dei Paschi. No, non è così. I reati sono reati, bene fanno i PM a perseguirli, e vedremo se vi è stato un giro di tangenti nella vicenda Finmeccanica con gli elicotteri in India. Quello che ho detto che è diverso è che, mentre nel caso delle accuse a Musri Baldassarri c'è la distruzione di valore di una banca, distruzione di valore perché se tu paghi almeno 1 miliardo in più, anche qualcosa in più, la banca Antonveneta, se fai operazioni con i derivati scriteriati, tra l'altro comprando i derivati cattivi pagando commissioni all'esterno, vedi il caso dell'operazione con Dresner, che creano poi un buco di 700 milioni di euro alla banca, che è poi obbligata a chiedere soldi allo Stato per 4 miliardi, un prestito allo Stato, lì distruggi valore. Ho detto invece che nelle vicende Finmeccanica, e vogliamo metterci anche Eni, quelle operazioni erano operazioni che, in cui i gruppi italiani, che poi sono i due più grossi gruppi italiani all'estero, aggiungiamoci anche Enel, vincevano delle gare dei contratti, il che non giustifica qualunque mezzo, ci mancherebbe. Si tratta però intanto di distinguere tra chi vince un contratto e chi distrugge valore per un gruppo. E quindi nel primo caso lo crei, cioè questi 700 milioni di euro di contratto di elicotteri indiani creavano, mantenevano occupazione e creavano valore per il gruppo Finmeccanica, e quindi anche per lo Stato italiano, che ne ha il 30%. E in secondo luogo occorre capire se, quando si ragiona di certi paesi, di certe aree, o facciamo tutti i moralisti, le verginelle, immaginando che siano tutti come la Svezia e la Norvegia, oppure cerchiamo di capire come, per commesse da centinaia di milioni di euro, se non miliardi, nei settori dell'esplorazione petrolifera, dell'industria civile, dell'aerospaziale civile, dell'industria militare, non ci sia da sempre l'utilizzo, da un lato, di mediatori finanziari e diciamo consulenti, lobby legalizzati in America. Dall'altro faccio anche presente che molto spesso i governi chiedono come compensazione, così come chiedono anche gli enti locali, chiedete a Moretti e alle Ferrovie dello Stato le compensazioni che gli hanno chiesto gli enti locali per costruire la Milano-Torino, l'alta velocità, chiedono che vengano date delle cose, la strada, la piscina, nel caso italiano gli asili, le scuole, gli ospedali nel caso di altri paesi. Quindi diciamo, c'è uno scambio che viene sempre dato, occorre che sia la luce del sole. E poi sarebbe bello vedere le normative degli altri paesi in tema di commissioni per la mediazione. Di questo vorrei parlare in maniera eretica, e lo vorrei fare con chi noi utilizziamo sempre per ragionamenti non ortodossi, forse non così da ben pensanti, senza legittimare la corruzione, che, lo ripeto per la 20ª volta, è uno dei motivi per cui gli investitori stranieri non vengono in questo paese, perché c'è la percezione che l'Italia sia più corrotta di altri paesi. E allora cerchiamo di ragionare in maniera un po' eretica. Allora, il tema è scivolosissimo, perché poi ragioniamo in questo periodo anche delle accuse al Presidente della Regione Lombardia, Formigoni. Alcuni mi scrivono: ma allora le tangenti, il giro ipotizzato in Lombardia, andava bene o non andava bene? È scivolosissimo, ma non per questo non lo voglio affrontare. Giulio Sapelli, economista, editorialista, docente di storia economica all'Università di Milano, il nostro il nostro falco, com'è che devo battere? No, un avvoltoio, no? Uccellaccio. Lei è cattivo, perché definirmi eretico per me è un po' scandaloso. Diciamo che cerco di essere obiettivo, ecco, allora, indipendente. Ma delle volte, come lei sa, conoscendo la storia degli eretici... In un mondo come questo, essere obiettivi, cercare essere eretici, allora va bene. Eccomi qua, mio allora, prima domanda... Io non ho mai creduto personalmente ai complotti della magistratura. Qui sono procure molto diverse che indagano su casi diversissimi. C'è chi mette in mezzo anche l'Ilva di Taranto, dove la procura ha aperto un braccio di ferro con il governo perché voleva a tutti i costi che gli stabilimenti venissero bloccati. E la Corte Costituzionale ha dato ragione al governo. Ma io non vedo un complotto, diciamo, della magistratura. Mi sembrano sempre delle scuse per chi ha qualcosa da nascondere. Lo dico molto chiaramente. Però... che cosa sta capitando? Ormai la battuta, siamo a una nuova Tangentopoli, l'ha detta oggi anche Mario Monti, mi sembra che siamo verso una nuova Tangentopoli. Anzi, facciamo così, vi faccio ascoltare nell'ordine, le faccio ascoltare anche lei, le dichiarazioni di Berlusconi di oggi sulle tangenti, perché ieri aveva detto c'è del masochismo nei PM, oggi ha corretto il tiro, e subito dopo quelle di Bersani e quelle di Mario Monti, in rapida sequenza. Ecco, io non ho fatto nessuna analisi sulle tangenti, io il nome tangenti non l'ho mai pronunciato e lo dico in una maniera assolutamente precisa, le tangenti sono un reato che va evitato e quando accadono punito. Nel momento della crisi economica e sociale queste cose ovviamente si moltiplicano e quando senti uno che giustifica hai capito da dove viene questo problema, perché se ci mettiamo a giustificare siamo a posto, cioè, ecco, ci manca solo quello, insomma, no? Che le tangenti esistano frequentemente negli affari, soprattutto in certi paesi, è la realtà. Che debba quindi considerarsi una necessità ineluttabile, lo rifiuto. Allora, tutti rifiutiamo tante cose nella vita, lo dico, no? Anche quello che capita tutti i giorni, però uno poi prende atto della cosa. Beh, ma io non voglio stare a dito. Sapelli, c'è dell'ipocrisia, ma in primo luogo, secondo lei c'è un'azione orchestrata o perché tutte queste cose stanno capitando in rapida sequenza? Dunque, sicuramente non c'è un'azione orchestrata per la ragione che ha detto lei, perché le procure sono molto diverse. E poi perché siamo in una situazione oggettivamente diversa da quella della prima metà degli anni 90, dove c'era soprattutto una situazione internazionale e una pressione internazionale che veniva dagli oligopoli finanziari che volevano privatizzare e liberalizzare l'economia italiana, traendone i maggiori benefici al minimo costo, e in questo modo anche la macchina giudiziaria svolse un suo compito benemerito per quegli interessi. Oggi invece la situazione è molto diversa, innanzitutto non c'è nessun rapporto con Tangentopoli, perché allora la corruzione che veniva avanti, come io scrissi in un libro che si intitolava Cleptocrazia nel 94, veniva soprattutto su pressione delle imprese e degli imprenditori, invece adesso il problema è molto diverso, c'è una disgregazione dei partiti politici, quello che è rimasto dei partiti politici sono soprattutto lobby personalistiche, forse l'unico partito che sfugge un po' a questo problema grazie alle primarie e alla sua riaggregazione al PD, ma altrove abbiamo tutti i gruppi di interessi protesi a procacciarsi denaro. Naturalmente poi non bisogna salvare nessuno ex ante, bisogna vedere ex post. Naturalmente, come hanno scritto illustri personaggi, molto più illustri di me, questo è un fenomeno mondiale, cioè il potere giudiziario si è trasformato da ordine in potere. Questa debolezza del potere politico e anche per certi versi del potere economico per effetto della crisi dà alle procure, ai giudici una potenza inusitata. Quello che sta capitando in Spagna, che è poco lontano da noi, è qualcosa che non si era mai visto anche nella Repubblica Spagnola, anche ai tempi che so più infestati dalla corruzione, come furono quelli dell'ultimo periodo del governo Gonzalez, adesso del governo Gonzalez o di Franco andando alla dittatura, adesso ci sono i popolari e è una catastrofe. Ogni giorno c'è una procura a Albacete, Alicante, eccetera, in tutta la Spagna, quindi è un fenomeno serpeggiante. Io prevedo che questo fenomeno, anche in Francia abbiamo avuto un'ondata di provvedimenti di questo tipo. Quindi la crisi, la disgregazione del sistema di potere europeo, la mancanza di regole interiorizzate dagli attori fa sì che l'ordine giudiziario, come dico sempre io, si trasformi in un potere, e spesso un potere che cerca una nuova legittimazione nel campo dei media, eccetera. Ricordo ad esempio che queste cose vengono fatte, si è colpevoli ormai nei media, pensiamo all'ingegnere Guaglini condannato dai media, nessuno ha ricordato che le cose infamanti per cui era accusato dai magistrati e dalla stampa si sono rivelate così deboli e senza nessuna prova che i processi non sono neanche iniziati. Solo il Sole 24 Ore e First Online ha dato la notizia, punto info. Sì, allora, ha ragione, Guaglini era il predecessore di Orsi in Finmeccanica. C'è un ascoltatore, io vorrei come sempre difendere la controparte, Sapelli, che dice: beh, anche la mafia crea valore e occupazione. Se iniziamo a parlare di come si vendono e si fanno i contratti all'estero e che bisogna pagare delle commissioni di mediazione che in alcuni casi sono tangenti, non la finiamo più. Io continuo a distinguere tra i mediatori che paghi all'estero e l'eventuale 51 milioni che, secondo l'accusa del PM, Orsi avrebbe, al di là di questi 51 milioni di stecca, diciamo, se 10 milioni sono stati dati a partiti e altre organizzazioni, quello è tutto un altro discorso, non serve certo per vincere una commessa. Però il tema resta, e cioè se uno inizia a dire bene, in alcuni paesi si fa così, rischia di legittimare e di aprire il varco, la stura a tutte le forme di corruzione e di tangenti. Sì, c'è chi fa anche un paragone come Mattei. Allora, guardate, Mattei, il grande fondatore dell'ENI, morì quando, anzi, fu ucciso probabilmente. Comunque, insomma, quando morì lasciò nulla, tant'è che l'ENI, me lo raccontava lei, Sapelli, dovete creare un fondo apposito per la vedova di Mattei. Tanto poco si era mangiato in tangenti Mattei. Non è come questi, come Baldassare di Monte dei Paschi, che va a ritirare un milione di euro in banca, per favore. E quindi sull'onestà di Mattei parla la storia. Io poi non so, Mattei, che quando andava nei vari paesi che tipo di scambi offriva. Non sto dicendo che offrisse tangenti, no, ma c'è anche la possibilità di costruire infrastrutture e quant'altro. È quello che fa la Cina per avere i diritti in Africa. Ma detto ciò, voglio difendere una tesi che non condivido. Se uno inizia a fare questo ragionamento, Sapelli, qui diamo là, in un paese ad altissima corruzione come l'Italia, e che viene percepito come altamente corrotto, diamo là a qualunque forma di tangente oppure di commissione di mediazione. Posso dire una cosa, Barisoni, scusi, certo. Se no parla sempre lei, no. Sono contentissimo di sentirla, ma però allora voglio dire, no, scusi, però sono molto indignato dal punto di vista concettuale. Anche ho sentito quei signori che parlavano prima di tangenti, eccetera. No, il problema di fondo, come lei sicuramente ha sollevato, è di differenziare tra la mediazione e la tangente. Quando io faccio un affare internazionale, pago una mediazione, ma anche quando ero bambino e andavo in campagna da mia nonna, quando c'era il mercato e vendevano i buoi, c'era il mediatore che faceva incontrare il contadino e il compratore della sua bestia, si chiamava mediatore. Quando si vendono non cioccolati, ma si vendono armi, si vendono energia, eccetera, eccetera, con contratti che durano 20 e 30 anni, la figura del mediatore è una figura istituzionalizzata. Tutte le grandi compagnie, io sono stato membro di Interna Lodi, di un'importante compagnia energetica, c'era questa cosa qui, avevamo introdotto noi questa misura di corporate governance e di accountability, per cui i manager dovevano dichiarare quali mediazioni avevano pagate. Queste mediazioni vengono scritte a bilancio, si mette in cassaforte l'importo, il segno dell'importo pagato, quando si fa poi dopo il bilancio consolidato deve riuscire fuori. La mediazione non è la tangente. La tangente è quella parte della mediazione occulta che semmai colui che riceve quel denaro fa arrivare dei suoi protettori o dei patronaggi occulti che ha, e quello può farlo il manager estero o il manager in questo caso italiano. Ma tra mediazione e tangente c'è una differenza abissale. Sapelli, mi dica solo una cosa, io su questo sono d'accordissimo con lei. Tutto questo sta capitando perché siamo, secondo il suo ragionamento, in un periodo di debole politica, quindi anche preelettorale, potrebbe cambiare con un governo più forte e di legislatura? Guardi, sta capitando soprattutto perché in questo momento è iniziata la campagna d'Italia. Ci sono pressioni estere fortissime per comprarsi per quattro soldi quello che rimane della nostra grande industria. Come lei sa molto bene, io ho sempre criticato questa mancata difesa della grande industria, anche sul problema di Finmeccanica. Bastava applicare il sistema della Golden Share e il governo avrebbe potuto erigere un muro di protezione e richiedere cambiamenti del management in modo molto più efficace. Quindi voglio dire, come ho detto sempre, i tecnici incompetenti non hanno avuto neanche le capabilities per redigere e stabilire, fissare i paletti necessari per impedire che, per esempio, Finmeccanica da questo colpo terribile subisse le conseguenze che sta subendo. Quindi proprio c'è una mancanza di technicality e di conoscenza delle necessarie misure di corporate governance che bisogna fare. Il caso dell'Eni è profondamente diverso. Io sono disposto a bruciarmi la mano come Muzio Scevola, perché l'Eni ha avuto dall'ONU per diversi anni il Global Award, il premio per i migliori sostenibilità, sia dal punto di vista della lotta contro la corruzione e sia dal punto di vista per la sostenibilità ambientale. Ha pagato naturalmente una multa alla SEC alcuni anni fa su presunte tangenti che erano state pagate in Nigeria, ma però questa cosa è stata voglio ricordare a questi signori che l'ENI è una società, quindi la SAIP è quotata alla borsa di New York, e quindi sottoposta a dei controlli così è l'unica società italiana. Bisogna che ci vadano cauti. Purtroppo devo chiudere, Seppelli, ma tanto lei è spesso nostro ospite, però. Quindi lei dice, attenzione, qui in gioco, al di là delle inchieste dei singoli magistrati, c'è la pressione internazionale per un paese in cui la classe politica è debole, debolissima, non riesce a difendere il sistema, per accaparrarsi alcune parti del paese. È un argomento molto rischioso, ma anche molto, molto stimolante. Io la ringrazio, come ringrazio Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Filippo Reggi per l'assistenza in redazione e in regia. Auguro a tutti voi una buona serata. La prossima settimana torneremo da lunedì in poi a occuparci anche di questi temi, spero il meno possibile, onestamente. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.